sia la tua realtà, mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affocare lo sangue con l'umanità. Quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Ciao a tutte le compagne ed i compagni che seguono Radio Silo. E, la trasmissione di questa sera ha come titolo L'anno che verrà. Non abbiamo fatto trasmissioni con titoli per un nuovo anno di lotte, eccetera, eccetera, perché sotto alcuni aspetti porta sempre sfiga. E quindi però abbiamo, ecco, questo titolo L'anno che verrà. E lo sappiamo bene che dipenderà solo da noi farne un anno ecco, sintetizziamole, di lotte, di conflitti sociali per arrivare a determinare in Italia una reale opposizione politica di classe. Allora, l'anno che verrà, siamo nel fatidico anno 2022, siamo nella nuovamente stiamo vivendo un clima abbastanza delicato, sempre sta storia del Covid, vax, no vax, green vax, non green vax, cioè questa situazione che sta determinando solo profonde lacerazioni e sappiamo bene. E sta apparendo così chiaro che questa tematica, questo binomio VAX-PAS sono stanno e sono utilizzate come un'arma di distrazione di massa per non parlare della sanità, della scuola, del lavoro e di questa controriforma reazionaria che è in atto da parte del governo Draghi. E noi, è chiaro che nel 2021 ci lasciamo un anno che è stato contrassegnato dalla mattanza di operai sul posto di lavoro, dall'omofobia e dal femminicidio, altra mattanza, e diciamo dalle sempre di più disequità sociali. Un anno che è stato contrassegnato da licenziamenti a più non posso, ogni giorno in altro luogo si chiudevano e si sono chiuse nel 2021 aziende medie e grandi, insomma, mettendo sul lastrico non solo gli operai, i lavoratori, lavoratrici e lavoratori, ma anche le rispettive famiglie. E non bastava già l'enorme divario tra precari e ricchi, abbiamo sempre di più aumentato le precarietà e le povertà. Questo, diciamo, è anche, come devo dire, ciò che la Commissione europea ha, diciamo, il commissario sobbligliando il fuoco, ma il nome è un po' strano. E, diciamo, la Commissione europea, ecco, Nicolas Schmit della Commissione europea ha pubblicato un rapporto sul mercato del lavoro nell'Unione Europea e per l'Italia viene delineata una situazione critica. Cioè, noi stiamo parlando della Commissione europea, quando si dice che una nazione sta in una situazione critica vuol dire che il quadro, altro che critico, sta rovinati. E Nicolas pone Schmit in una sua recente intervista a Sole 24 Ore, pone il nostro paese in fondo alla classifica sia per l'occupazione di giovani che per quella delle donne. E diciamo, mentre aumenta la disoccupazione, diciamo, ci sta sempre di più, ecco, come denunciano, carenze di manodopera. Quindi il problema lavoro si può risolvere, ma il ragionamento qual è? Che diciamo, i salari sono bassi, a volte rischiano il senso dei lavori di schiavitù con orari orari lunghissimi, e non peraltro una causa della mortalità sui posti di lavoro sono i ritmi di lavoro, la precarietà, il ricatto. Non solo i padroni non vogliono spendere manco una lira per la salute, per tutelare la salute dei lavoratori, ma diciamo li vogliono sfruttare per ore e ore con paghe da fame. E in più, ecco, questo Nicolas Schmit pone il problema che in Italia si trova il lavoro da un punto di vista solo clientelare, per amicizia. Infatti Schmit usa il termine si trova lavoro perché si conosce lo zio di un amico. E nello stesso tempo è salito il numero delle famiglie sull'orlo della povertà e, diciamo, aumentano nello stesso tempo i bambini che partono svantaggiati. In più l'istruzione è, diciamo, come ascensore sociale, questi sono i termini, non funziona più. Ecco, parliamo del lavoro. Noi, come Compagni e Centro, il 2022 l'avevamo chiuso con un presidio a fianco dei lavoratori delle cooperative sociali, diciamo, il giorno di un consiglio comunale. Questi lavoratori delle cooperative sociali, bene ricordare, licenziate per le vicende giudiziarie, insomma. E questi lavoratori, sono stati decine di loro, sono stati messi a licenziamento. E vediamo, ecco, il paradosso, no? Noi siamo una città in piena pandemia, no? È quasi un mese che i parchi sono chiusi, tutti i parchi verdi nella città sono chiusi perché il personale, no che non ci sta, non può essere assunto il personale perché per la privatizzazione che ci sta in atto nel comune di Salerno non esistono più i giardinieri dipendenti che vanno ad aprire e manutengono i parchi, ma sono state affidate a tantissime cooperative e per la vicenda giudiziaria che come al solito diciamo, è uscita anche ha avuto una sua risonanza a livello nazionale per le note vicenze degli scandali che del clientelare, sistema clientelare politico del sistema Salerno. È chiaro che, come devo dire, le cooperative che sono tutte inquisite, tanto è vero che stanno iscritte nell'elenco dell'ANAC, dell'anticorruzione, per cui a pagarne le spese sono i lavoratori. Il comune non ne vuole più sapere di ripubblicizzare i servizi e a questa scelta politica. Oggi un'altra novità, si faranno le convenzioni perché allora sono chiusi anche gli uffici dell'anagrafe, però se uno si può fare uno stato di famiglia, povero Cristo, non sa come rivolgersi, dove rivolgersi. Ci sta una sola sede che è posizionata in un punto della città dove non ci sono pullman, nessuno lo conosce dove sta, per cui si è fatta una convenzione che ora per farsi uno stato di famiglia o gli online, per chi ha il computer, chi sa masticare, diciamo chi ha una pratica di computer, oppure deve andare dal salumiere, dal fruttivendolo a prenotarsi un certificato. E nello stesso tempo, ecco le convenzioni, la privatizzazione, le convenzioni con delle cooperative del terzo settore. È chiaro che noi potremmo, come dire, quindi abbiamo chiuso l'anno col presidio, l'abbiamo ripreso il 3 gennaio con un'altra iniziativa pubblica nella zona orientale della città, un luogo che è diventato proprio un deserto e non c'entra il freddo, il Covid, ma è sempre stato così, anche perché come esistono i nord e sud del mondo, delle nazioni, esistono anche i nord e sud delle varie città, specialmente quelle turistiche, e in questa città i diritti sono consentiti a quel poco di esercenti che, diciamo, sulla striscia di 500 di neanche un chilometro, di 500 metri, dove è posizionato bar, ristorante, eccetera, eccetera, dove ci sta la famosa movida, mentre per il resto delle città, dei quartieri proletari, sottoproletari, i quartieri sono diventati sempre più macellerie sociali, e nelle zone orientali, nella zona orientale e nei quartieri, nelle zone alte della città, non alte come residenze borghesi o di lusso, ma le zone collinari della città, ci sta solo fame e disperazione, che lo si evince anche dal fatto che durante tutto questo periodo natalizio nei magazzini non c'era quasi nessuno che faceva le compere. E l'anno che verrà, se da un lato ci sono i problemi, quello che è, diciamo, l'anno che verrà, il 2022, ecco, noi l'abbiamo già sperimentato il 3 gennaio, e a dire il vero, nonostante tutta una serie di problematiche che pongono la nostra città ai primi posti nelle triste classifiche per il lavoro, per il fenomeno migratorio, per le diseguaglianze sociali, per l'altissimo costo della vita e delle tasse, non c'è stata nessuna risposta politica alla nostra iniziativa. Ed è bene ricordare che questa è un'iniziativa organizzata insieme ai lavoratori delle cooperative sociali, che a loro volta a questa iniziativa non si sono presentate. Allora, un motivo politico c'è, perché a disincentivare questi operai a venire alle nostre iniziative ci hanno pensato i segretari delle varie organizzazioni sindacali. Allora, se non ci, diciamo, se non ci stupisce il segretario, la segretaria, il sindacato della CISL, un sindacato di destra che a Salerno è il primo, nel comune di Salerno è il primo sindacato, quello che diciamo fa più in becera figura è la CCL, con un che quando si è fatto il presidio sotto al comune, la sua paura era che i lavoratori, erano due le paure, una che i lavoratori facessero blocchi stradali, aumentassero il conflitto sociale, la seconda paura è la strumentalizzazione da parte nostra di questi lavoratori. Insomma, questa è una fotografia della nostra città che, come devo dire, ecco, quando noi diciamo per un nuovo anno di lotta fino a mo c'è sempre portata sfiga, ci siamo posti che anno sarà, quale anno, l'anno che verrà, con un punto interrogativo. E diciamo, se i presupposti sono questi da un punto di vista locale, e in cui ci sono tantissime contraddizioni, tantissime problematiche, e come Salerno è la città da cui noi, dove sta il nostro centro sociale, dove sta la radio da cui ne stiamo parlando, e il problema non è solo Salerno, ma è l'intero sud che vive questa situazione di limbo, e che, su cui necessita, noi ci stiamo battendo affinché si possa ripigliare il filone, quel filo rosso che andò a determinare una ricomposizione delle realtà antagoniste nel meridione, che è bene sempre ricordare ha prodotto nel nostro meridione più di un decennio degli ottimi risultati, dall'impedimento della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, la questione delle mega centrali termoelettriche e anche sulla questione dei rifiuti. E qua dobbiamo dare sempre un enorme, proprio per la memoria storica, un enorme ringraziamento al popolo d'Acerra, che si merita la medaglia alla resistenza moderna, la medaglia proprio per la resistenza a valor proprio civile, di classe e via dicendo. È chiaro che questo quadro che diciamo abbiamo appena descritto, definito, è chiaro che ci pone molti dubbi. Ma il problema è che se da un lato si può comprendere il ricatto di questi operai, che così come la maggioranza delle persone precarie che vanno a lavorare per decine di ore, per ore e ore, con redditi di fame, e sotto, si possono non giustificare, considerare, comprendere. Dall'altro lato, quello che non possiamo comprendere è che il problema lavoro, della dignità, non si parla più di sanità pubblica, non si parla più di niente, e quindi di riproporre il conflitto sociale a partire dal locale. Quello che ci meraviglia è il ruolo di una sinistra totalmente assente, come se questi problemi che noi viviamo nella nostra città, come diciamo questa sinistra, non l'abbiamo definita una sinistra di militanti, una sinistra turista, come se in questa città non paga le tasse, non vive le problematiche legate all'ambiente, alla salute, legate alla scuola e via dicendo. E questo è una cosa che a noi compagni, che ho torto collo, ormai siamo nel 28° anno di esistenza, di resistenza come asilo politico, noi con un modo cocciuto continuiamo a fare, a indire iniziative, a fare dei presidi, perché l'importante, specialmente dopo questa storia della pandemia, lockdown, tra Green Pass, Novax, Visivax, no Green Pass, eccetera eccetera, è importante che i compagni ricomincino ad essere visibili nelle piazze, anche perché quel che stiamo vedendo è la situazione politica nazionale sempre più improntata sulle logiche di militarizzazione dei territori, e diciamo su forme di odio sociale, ecco qua abbiamo il nombus ultra dello showman dell'odio sociale, che una volta era l'odio sociale contro i disoccupati, un'altra volta era contro gli immigrati, tant'è vero che nella nostra città si è verificato il caso dei vigili urbani che sono andati a levare con questo freddo, con questo cielo, alcuni giorni fa le coperte che stavano, che riscaldavano, poverino, sto povero Cristo che stava sembra il nome del decoro, ecco, il nome del decoro. E come sto dicendo, prima istigava l'odio sociale contro i disoccupati, poi istigava l'odio sociale contro gli immigrati, vabbè, l'odio sociale contro l'asilo politico ci ha sempre tentato, ma non ci è mai riuscito, nonostante le tre delibere di sgombero. Ora istiga l'odio sociale contro chi si pone e lotta contro il Green Pass, e su questa parte ci sono il serio pericolo che i modi su come abbiamo detto prima, che venga usata per arma di distrazione di massa dalle tantissime problematiche e dalle controriforme che stanno avvenendo in un modo accelerato e che si possono creare dei precedenti, compresa la militarizzazione eccetera eccetera, che dal Green Pass poi diventi sistemico contro chiunque si oppone alle scelte governative. Ecco perché l'invito dei compagni a riprendersi le piazze e non soffermarsi alle situazioni, come per dire questa è rivolta a chi si oppone al Green Pass, a noi non ci toccheranno. Non è così, cari compagni e care compagne, anche perché si stanno creando dei precedenti giuridici, tanto vero se noi vediamo, ecco, come noi abbiamo avuto le vicende di questo compagno Emilio, questo povero Cristo che veramente gli è stata accettata l'estradizione come se fosse un mafioso, mentre i mafiosi, ecco, escono dalle carceri, mentre i mafiosi si candidano, e qualcuno forse si candida anche alla presidenza della Repubblica. Ecco che nel riguardo il suo compagno, a cui va tutta la nostra solidarietà, fanno proprio irruzione, modello proprio, come devo dire, irruzione, corpi speciali, via dicendo, per prelevare un compagno e portarlo in Francia. I problemi, ecco perché bisogna stare attenti rispetto e vigilare affinché, diciamo, le tematiche delle libertà collettive ed individuali non vengano soffocate. Questo è il ragionamento, è sempre chiaro con le discriminanti antifasciste e antirazziste, però è importante perché si creano dei precedenti. E ora ci stiamo avviando verso una situazione, perché l'elezione del Presidente della Repubblica, il modo come avverrà e le metodologie che si stanno seguendo è come se noi stessimo già in un presidenzialismo senza modello francese, senza averne mai discusso, dibattuto, e diciamo questa storia dell'elezione del Presidente della Repubblica nuovo, dopo diciamo a fine gennaio ci dovranno essere le prime votazioni, e il nuovo Presidente della Repubblica dovrà rincarnare quello che è il ruolo di Draghi, come l'uomo della sicurezza, l'uomo dell'ordine, l'uomo che riporterà l'uomo della provvidenza. Bisogna stare attenti, cari compagni, ecco perché noi diciamo l'anno che verrà, noi abbiamo posto alcuni esempi, partire dal locale, e a proposito del locale, noi in questa città, in piccolo, questa città esprime ciò che è in piccolo, ciò che sarà a livello nazionale il governo Draghi, insomma queste le controriforme del governo Draghi. Quando, ecco, noi abbiamo fatto l'esempio dell'anagrafe, che o si convenziona con quindi o si privatizza mediante convenzioni con cooperative sociali, oppure si usa l'elemento tecnologico del computer per fare diciamo i certificati. Il problema è che non è che per incapacità non si assume, per non volontà che non si assume, perché non si vogliono ripubblicizzare i servizi. L'esempio degli operai delle cooperative sociali, l'esempio dell'ufficio Anagraf, per non parlare poi della sanità, della scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ora mettiamo un po' di musica e poi passeremo con altri esempi sull'anno che verrà e che ci aspetta subire, sperando di meno, su cui dobbiamo opporci. Salutam presidente, dovete perdonare il tono fuori un po' pesante, presidente importante, ma se chiavate un capo un pensiero mi tormenta. Sienta, tu manca ma canusce, però tu mi rappresenta, a me tantata gente ho problemi proprio chi ste agente. Saranno 15 anni che sorrida tutto quanto sua dente, solo non è cattivo e drogato e nemmeno delinquente, ho capito, vi siete spaventato, ricchino tatuaggio, stragazzo che cagate, presidente sentito, in un mafile più mi sono scucciato e spiega che cazzo tengo perché sono contrario alla decapitata. Una cosa piace all'ate e per me una distruzzata. E allora rispondite, rispondo maledetto, perché ho strano son chi e non è strano un cadetto. Mi vivi in doppio petto, banchiere cavaligetta, maledetto il tuo Dio, chi cazzo te l'ha detto che ho stabilisce tu chi fosse storto e chi diritto. Presidente, è chiaro il concetto, ma senti. Cerco nei miei pensieri e vedo di capire se ho bisogno. Tenga guerra santa, incapano un progetto assai distante. Quello che penso tu, quello che pensa tutta gente che t'ha fatto presidente, non t'ha già spiega niente. Mi faccio musicante e tengo compagnia che voce mia chi te no piatta vacante. Si tuo presidente, è come se tu fossi un servizio che hai non sono utente. A venire a dume, gentilmente, mi ha spiegato perché gentilmente, e sa sta a tutte gentilmente. Venga bene a me gentilmente, se a me non viene niente gentilmente, presidente, molla ma va a tenne, voto già da punente, voto già da punente, già dalla gentilmente. Adolescente e t'assepava proprio come tutta la gente, e anche mica mi se l'è pigliato stata proprio ultimamente. Appunenta, appunenta, non voglio polizia che l'aumenta, voglio spazio sociale vagarinda, piccia televisione e non fa niente, servizi zero e zero ancora finanziamento, apponente, apponente, nessuno mi rappresenta, non voglio sapere più niente, caconda me ne zero è pure fin troppo evidente, e allora presidente, sia chiara la perrecchia e spilla buona e tiene a mente, perché sono mortaiere, defunta. Piede mana vuole vai col vento e fai conto, con morte rinda casa, pesta e feto veramente. Piccio palla per te, presidente, molla ma va tenne, voto c'ha da punenda. Voto c'ha da punenda. Riprendiamo la trasmissione che ricordiamo come titolo a L'anno che verrà, cioè che tipo di anno ci prospetta, qual è, no, ci si prospetta e qual è, deve essere il ruolo nostro dei compagni, quello sulla possibilità di riaprire una stagione di conflitti sociale. Prima abbiamo dato alcune pillole parlando del problema lavoro, precarietà, sud, lavoro, precarietà, questione meridionale. Ora facciamo un'altra pillola, quindi abbiamo parlato, diciamo, del lavoro, dando piccole alcuni spunti, insomma, su cui poter riflettere. È chiaro che ora questo l'anno, questo gennaio, noi riprenderemo in modo molto più organico, perché in questo periodo ci sono stati molti problemi anche dal punto di vista climatico e quindi dal lavoro, quindi riprenderemo in un modo molto più diciamo le trasmissioni dal vivo, che diciamo, vabbè, alcune iniziative le abbiamo già, ne abbiamo già parlato, e su quelle che noi faremo, dal lavoro alla sanità e via dicendo. Ora, dal lavoro, diciamo l'anno che verrà, ecco, e notizia di qualche giorno fa è della proposta della Commissione Europea di inserire nella tassonomia green, ovvero le fonti, tra le fonti rinnovabili, di inserire nella tassonomia green anche alcuni investimenti sul nucleare e sul gas nucleare. Perché diciamo la proposta, ecco come la motivano, è che il gas e il nucleare sono fondamentali per loro per favorire la transizione verso un'energia più pulita. E perché rispetto alla questione, sempre secondo la Commissione Europea, è necessario riconoscere che i settori del gas fossile e dell'energia nucleare possono contribuire alla decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. Questo è quello che sostiene la Commissione. E la cosa qual è? Che se la maggioranza dei membri dell'Unione Europea sosterrà la proposta, diventerà legge dal 2023. E vediamo che rispetto a questa proposta, chi si è opposto in un modo molto chiaro sono la Spagna, l'Austria, il Lussemburgo e la Germania. Anche se all'interno quella della Germania sembra più un ni che un no. E l'Italia, giustamente, rispetto alla questione nucleare, non ha fatto nessuna dichiarazione, né di Draghi, figuriamoci loro che sono stati tra i primi, insieme al dottor Stranamore, agli Assicincolani, a sdoganare la questione del nucleare. Allora, questo è una cosa molto, ma molto delicata e pericolosa. Ricordiamo che, ecco, ritorniamo alle due tematiche su cui sempre vigilare: semplificazione e transizione, oppure transizione e semplificazione. Quindi, per poter permettere delle passaggi, delle scelte, transizione, necessita la semplificazione, che tradotto in termini reali significa: io, per portare avanti queste controriforme reazionarie, antipopolari, contro l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, necessito della semplificazione, il che significa che non voglio essere dato fastidio. Il che significa, tradotto, chiunque si opporrà a questa situazione, proprio per semplificare, ci sarà l'uso della repressione. È chiaro che, figuriamoci se Cingolani, diciamo, si è espresso in tantissime volte dal suo ingresso alla possibilità, diciamo, del ritorno nucleare in Italia. Questa è una faccenda, insomma. È chiaro che, per dire, il terrore che è, diciamo, se non ci stanno delle prese di posizione, ecco, come ho detto prima, questa proposta potrebbe diventare legge già nell'anno prossimo. E, diciamo, la Francia, figuriamoci, vive di nucleare come non mai. In Germania stanno levando le ultime centrali nucleari, però la Germania, ecco, segue i dettami dell'Unione Europea, e ricordiamoci che il G20 che si è tenuto in Italia, proprio per il riordine del nuovo ordine mondiale, la questione europea è l'asse italo-francese sulle tematiche economiche, ma anche militare, quindi del nucleare, si sono trovati diciamo in sintonia. Diciamo, Cingolani, il dottor Stranamore di questo governo Draghi, ne è uno dei maggiori assertori. È chiaro che, per dire, ecco, mentre la Commissione europea porta l'inserimento delle forme rinnovabili del nucleare, ecco che vediamo che questo da alcune fonti di giornali antagonisti anche si nasconde che, diciamo, nelle ultime settimane ci sono stati incidenti nucleari un paio di incidenti in poche settimane nella centrale nucleare che sorge a nord da Avignone. Però è chiaro, di questo non esce niente. Fino ad ora non è uscito nulla. Il problema è che questi qua che fanno seriamente su questa situazione, ecco, già Cingolani, i suoi primi vagiti di governo, di questo governo reazionario di Draghi, Cingolani, ecco, il ministro della transizione ecologica, dove è andato per trovare sostegno politico? Caso strano, andò al convegno di Italia Viva che fece un convegno, quindi, per la il titolo di questo convegno di Italia Viva era meritare l'Europa, che, ricordiamo, fu organizzata a Ponte di Legno in Brescia, luogo della festa, caso strano, di Ferragosto della Lega. E lui ha avuto il barbaro coraggio, questa è una scuola di formazione per gli attivisti di Matteo Renzi, ha avuto il barbaro coraggio che dire, che tanto è vero, quando si è espresso, che il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti oltranzisti ideologici. Loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale noi stiamo andando sparati, se non facciamo qualcosa di sensato. Quindi il problema sono gli ambientalisti, chiamati da questo emerito dottor Stranamore, sono il problema. Ed è chiaro che, per dire, lui, come dire, non peraltro non è un caso, e non a caso è andato prima da Matteo Renzi, che ricordiamo è stato l'autore di questo golpe politico definito da noi alla matriciana, che ha permesso, che ha fatto cadere il secondo governo Conti e ha permesso l'ingresso dell'uomo della speranza, l'uomo risolutore dei problemi, l'uomo della provvidenza, Draghi. E è chiaro che questa non è stato un caso che lui ha tostato il terreno dai primi suoi assessori. È chiaro che questi affiliati lo hanno acclamato, gli hanno battuto le mani e via dicendo, che centaglia, uno peggio degli altri. Però è bene ricordare pure che oltre a Matteo Renzi, ricordiamo che Cingolani è stato scelto e voluto da Peppe Grillo, quindi non è che, diciamo, lui è venuto a casa. E qua apriamo, ecco, un altro tema. Quindi abbiamo parlato del lavoro, ora parliamo della questione dell'energia. Allora, tant'è vero che le trivelle non diminuiranno, anzi aumenteranno sempre più le dipendenze dai gas israeliano, che è stato espropriato agli palestinesi, e aumenteranno le dipendenze dalla Turchia, da tutte quelle realtà, caso strano, i pitbull degli interessi imperialisti nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, e dove poi stanno succedendo le peggiori storie. Ecco, non è chiaro che parlare di gas israeliano ci pone il problema di parlare del genocidio in atto nei riguardi del popolo palestinese e in atto anche nei riguardi del popolo curdo. Allora, ed è chiaro che, ecco, dal lavoro parliamo al concetto dell'energia, e noi ci battiamo sempre contro l'energia ambientale. Se noi parliamo di energia ecocompatibile, è chiaro che noi è come se noi dessimo un assist a chi considera che il gas e il nucleare possano rientrare nella economia green, quindi nelle fonti rinnovabili green, che ridurrebbero i problemi climatici. Chiaro che, ecco, questo lui pone il ricatto, Cingolani, queste nelle sue prime espressioni, nel suo primo vagito del ministro della transizione ecologica, lui cosa ha detto? L'Occidente, se vuole mantenere questo tipo di sviluppo, quindi il problema lo ha trasferito ai cittadini, vi piacciono avere 3 computer, vi piacciono avere 3 smartphone, vi piace questo il benessere, e allora dovete accettare anche le centrali nucleari, o dovete accettare anche gli inceneritori, o dovete accettare le trivellazioni, la TAP, il TAV e tutto quanto il resto, sempre in nome dello sviluppo. Ed è chiaro che noi dovremmo ricominciare a riprendere il concetto del risparmio energetico legato alla riduzione dei tempi dello sviluppo, quindi i tempi dello sviluppo, dello sfruttamento non solo dell'uomo, ma dell'uomo, del capitalismo sulla natura. E ricordiamoci un piccolo esempio, quando noi fummo illuso che questa storia della pandemia nei primi giorni era diventato un nostro alleato, perché mi svelò tutto ciò che decenni di privatizzazione, di sfruttamento irrazionale della natura, lo sviluppo capitalistico aveva determinato, e cioè via dicendo. Fummo smentiti subito dopo. È chiaro che quando noi parlavamo, ecco l'esempio del nostro fiume Sarno, che durante il lockdown era ritornato ad essere un fiumiciato, un fiume, dove la fauna ittica e dove diciamo si stava ritornando ad essere un torrente d'acqua anche pulito, addirittura si rivedevano i gamberetti di fiume del fiume Sarno. Finito il lockdown, il fiume Sarno è ritornato ad essere il fiume, nel giro di 48 ore è ritornato ad essere il fiume più, uno dei fiumi, se non il fiume più inquinato d'Europa. Allora, questo è il ragionamento che come compagni siamo tenuti a riflettere, a riportare, perché poi ecco il problema qual è, che noi durante i mesi di lockdown noi abbiamo avuto l'opportunità di analizzare, riflettere, determinare piattaforme sociali, tant'è vero che ecco, in un modo erano decenni che non si sentiva parlare di sanità pubblica e della scuola come strumento formativo, bisogno di assumere più personale, la difesa della salute, la difesa dell'ambiente, che nulla sarà, come devo dire, saremo tutti bene, nulla sarà come prima. Infatti poi come se sono tradotte queste situazioni, che siamo peggio di prima, di sanità non se ne parla più, non di sanità pubblica non se ne parla più, si parla soltanto di profitti per i privati, della riproposizione della cosa pubblica negli ambiti della pubblica amministrazione non se ne parla più, e sulla questione ambientale ecco non se ne parla più, per cui quegli esempi di tempi umani che si erano determinati ormai hanno avuto un tempo di uno scoccar di dita, insomma, in poche ore ecco il fiume Sarno è ritornato ad essere uno dei fiumi più inquinato d'Europa, e siamo ritornati in Italia ad avere i più tristi primati per ciò che riguarda il problema della salute, il problema della scuola, del sapere critico, il problema del lavoro, il problema della precarietà e della povertà, che abbiamo visto stanno aumentando in termini esponenziali, così come anche la questione della repressione, della militarizzazione del territorio. C'è il fatto che noi siamo in perenne stato di emergenza, c'è il fatto che noi ormai ci stanno abituando a vedere cammini per strada, esercito con mitra, pistole, qua ci mancano solo le bombe a mano. Polizia, carabinieri, vigili, guardia di finanza, guardia provinciale, insomma, siamo ormai, i territori nostri sono militarizzati sotto tutti i punti di vista, e ricordiamo che il problema è che questo metodo di militarizzazione, che apparentemente è legato alla questione del Covid, poi sappiamo bene che sta diventando sistemico e che toccherà ogni forma di opposizione sociale. Tanto è vero, basta guardare come sono stati aggrediti gli operai delle grandi distribuzioni, è ritornato nuovamente il padrone classico storico del periodo prefascista, che organizzava le proprie milizie, i delinquenti, per aggredire gli operai che facevano sciopero. È ritornato il ruolo della destra che aumenta sempre di più nelle loro organizzazioni eversive e con legami internazionali, in cui è chiaro Trump ha sdoganato a livello mondiale. E è bene ricordare che in ampie regioni del pianeta vi sono nazioni a cui nostalgici delle dittature, ancora governano, sperando che in America Latina, dopo l'elezione in Cile, comincia ad esserci una controtendenza, e anche questa storia dell'America Latina deve essere per noi un riferimento, perché ecco, può essere un fenomeno di controtendenza, e l'America Latina può diventare un punto di riferimento per tante forme, metodi di relazioni umane, politiche, che potremmo anche prendere ad esempio, insomma, non per altro, ecco, anche la venuta dei zapatisti in Italia, così come anche la campagna per la liberazione del popolo mapuche, insomma, e così come anche il ruolo che hanno le compagne, i movimenti delle donne in Brasile per la questione pure contro la foresta amazzonica, i conflitti in Cile, il conflitto sociale che stanno in Cile, in Argentina. Allora, ecco, e sperando che vadano bene le elezioni in Brasile, insomma, per mettere a tacere definitivamente quel fascista omofobo di Bolsonaro. Allora, ecco, dall'America Latina, come dire, ecco, quindi abbiamo parlato, ecco, altre pillole di, abbiamo parlato di spunti di riflessione, abbiamo parlato di nucleare, abbiamo parlato la questione anche dell'America Latina. È chiaro che, per dire, un altro spunto di riflessione è sulle tematiche internazionali, è quello che, diciamo, l'accordo firmato dal Giappone e dall'Australia, che, diciamo, hanno firmato un accordo che è volto a rafforzare i rapporti nel campo della difesa. Leggo queste perché sono tratte da alcune fonti informative. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che il trattato contribuirà alla stabilità regionale. È chiaro che il riferimento è legato alla Cina. Questo accordo è stato sottoscritto da Fumio Kishida, che è, diciamo, l'omologo, primo ministro giapponese, e infatti che ha definito l'accordo una dichiarazione dell'impegno di due nazioni a lavorare insieme per affrontare le sfide di sicurezza strategica condivise che affrontiamo e per contribuire a un Indo-Pacifico sicuro e stabile. È chiaro che loro sempre pongono il problema dei diritti civili, senti chi parla. Allora, e per, diciamo, il problema è quello di determinare un Indo-Pacifico libero, aperto e resiliente. Ecco questa parola, resiliente. E, diciamo, non è escluso che da questo trattato tra Tokyo e Canberra possa andare a determinare l'inizio dello svolgimento di esercitazioni militari congiunte in Giappone con gli Stati Uniti d'America. E noi stiamo seguendo tema di questi giorni, che stiamo vedendo, insomma, come il nonno Biden, il Pacifico Biden, no, il Pacifico Biden, come devo dire, sta, diciamo, amplificando sempre di più i venti di guerra, sia per ciò che riguarda la questione ucraina che quella questione cinese. Insomma, noi ogni giorno siamo sempre sull'orlo di un conflitto militare. Abbiamo parlato prima del nucleare, è chiaro che noi, se noi vediamo oggi la ricorsa agli armamenti, che comprende anche l'uso del nucleare, nonostante che parlano di denuclearizzare eccetera eccetera, però continuano ancora, diciamo, la corsa al riarmo con armi sempre più costose, pericolose e via dicendo. E sembra, diciamo, la questione che è sempre poi legata al ruolo degli americani e dell'imperialismo americano, un'altra notizia è la rivelazione, diciamo, ecco sempre queste notizie riportate, e diciamo del governo britannico con Tony Blair. Ricordiamo l'asse Blair Clinton D'Alema, quella della terza via, sembra lui D'Alema, e, che è legata alla questione che nel 2003 decise di sostenere l'invasione americana dell'Iraq per, diciamo, destituire Saddam Hussein. E, il problema è, come dire, quindi questo, diciamo, questa situazione, ricordiamo bene, insomma, che Blair era al corrente che l'iniziativa militare di Washington, quella di invadere l'Iraq, era motivata con false prove sull'esistenza di armi di distruzione di massa nei depositi di Baghdad. E sappiamo bene che quindi era illegittima. Il problema è che come dire, questa situazione che quel Tony Blair ha, diciamo, ha distrutto questo documento di cui uscivano il ruolo dell'Inghilterra, dello Stato, del governo britannico, del democratico Blair all'epoca, di invadere l'Iraq. Questa è la faccenda. È chiaro che questo Blair, che tanto sannato da D'Alema, tanto sannato da Matteo Renzi, che per lui è l'idolo, ecco la sua la terza via blairiana, dalemiana, di clintoniana nel mondo, insomma, il neoliberismo dal volto umano, insomma, e questo è quello che noi stiamo assistendo nel pianeta Terra, è proprio quello che esce fuori, che un neoliberismo dal volto umano è impossibile. Il capitalismo è sfruttamento, il capitalismo è povertà, il capitalismo, per imporre i suoi dettami, usa la guerra e ricatto, quindi la spada di Damocle posta sul destino dell'umanità, rappresentata dal nucleare. Allora, ecco, quindi queste pillole di dibattiti, quindi abbiamo parlato lavoro, energia, ambiente, questione meridionale, questione internazionale, possono rappresentare quelle pillole, diciamo, di riflessione, di dibattito, ed è chiaro che qua, come dire, ogni giorno la quantità di cose su cui mobilitarsi, impegnarsi, chiamare alla mobilitazione, cioè, sono tantissime. Se poi vediamo anche questo clima di militarizzazione, di lacerazione dovuta a sta vicenda del vaccino con tutte le sue, proprio, non, cioè proprio stanno rincoglionendo la gente, stanno il concetto dello stato emergenziale, informano, disinformano, un macello. Noi pensiamo che solo il ripristino di un agire laico nelle piazze possa anche porre un dibattito serio anche rispetto a delle tematiche che legano, diciamo, anche l'opposizione al Green Pass, non al vaccino, al Green Pass. E tanto è vero che è come se, diciamo, le mobilitazioni contro il Green Pass, come se il governo abbia nostalgia dei Novax, e chi lo sa se questi Novax possono essere riproporre un nuovo 9 ottobre da legittimare scelte ancora più squallide, pericolose per la democrazia e per le libertà collettive ed individuali. Cari compagne, cari compagni, ciao e alla prossima. heart of this nation. I suggest that we take anti-statists' advice and give up on hope and listen instead to voices from below. Voices from below. Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi è messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, etiope cora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita. Che vamo a fare? Hai che luciare? Hai che luciare? Feeling like you're getting ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in no critical way. When it's big business bestiality, baby, eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it. But yes, we can. It's like just say no. Said you change what you know. Popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. Assassinia thieves like them I can't be. So I made a decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life. Che vamo a fare? Hay que luchar. Hay que luchar. What Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action. Anger to action.